formula Total Relax. Richiedi un'analisi tecnico-economica gratuita su omnisist.it. Omnisist, il valore della responsabilità. YouTube Social Village di Marta Cagnola. Oh, aspettate un secondo che sto facendo un Instagram Story, eh? Allora, faccio un Instagram Story perché così già anticipo qualcosa della scaletta degli ospiti favolosi. Poco fa li ho twittati che avremo in queste due ore di RadioTube. Allora, lo sapete, dalla scorsa settimana abbiamo salutato con grandissima tristezza il Sabato del Villaggio. Non c'è più il Sabato del Villaggio. Vabbè, insomma, abbiamo due ore di RadioTube, dalle 16 alle 18. La prima ora si chiama RadioTube Social Village. Abbiamo un sacco di personaggi, temi dello spettacolo, temi di... questa volta parliamo molto di televisione, serie TV, musica. Avremo un cantautore che io adoro e che sarà in studio con noi a RadioTube. La seconda ora è RadioTube Social Network. Abbiamo ogni settimana un co-conduttore d'eccezione. Non vi anticipo ancora, non in radio, sui social network l'ho già scritto chi sarà il co-conduttore di questa settimana. Ho una maglietta a tema, poi ve la fotograferò e la metterò in rete. La rete è un po' il filo conduttore delle nostre due ore, perché sono gli argomenti di cui in rete si parla tantissimo. Ovviamente potete tenerci compagnia con i vostri messaggi per tutte le due ore, anche quelli di insulti, mi van bene anche quelli. L'altra volta c'era qualcuno che mi voleva far mangiare da uno squalo nelle acque del Lido di Venezia, i famosi squali di Venezia, vanno bene anche questi. 349-238-6666 via SMS, via WhatsApp. C'è Roberta in regia che ride per lo squalo del Lido di Venezia. Allora, 349-238-6666 per gli SMS e per i WhatsApp, e poi ci sono i miei account di Twitter e di Instagram, @MartaCagnola. Ma con cosa partiamo? Partiamo proprio con la televisione, con quello di cui si è parlato in questo periodo. Beh, cominciamo così. Come ti chiami? Samuel Stone. Vengo dalla Nigeria. Da quanto tempo sei in Italia? Sono qua in Italia da 1 anno e 9 mesi. Ho attraverso il deserto e il mare per arrivare qua. Accidenti. Quanto è durato questo viaggio che hai fatto? 9 mesi. Deve essere stata durissima. Senti, che cosa vuoi cantarci? Oggi faccio un brano che ho scritto, si chiama The Fire. Samuel Storm è molto bravo, è uno dei concorrenti di questo X Factor. Beh, non ancora concorrenti, perché questa settimana è ricominciato X Factor su Sky. Lo sapete, si inizia come ogni anno con i casting, quindi lui si è presentato, ma già si è capito che piace, piacerà. Ed è uno dei tanti ragazzi che vengono dall'estero in questa stagione di X Factor. Non solo, ce ne sono alcuni che arrivano da altri paesi, alcuni che sono di origine di seconda generazione, di origini stranieri, ma nati in Italia. Ci sono persone che sono, cioè ragazzi che sono arrivati da bambini. Insomma, questo è un po' uno dei fili conduttori di questo X Factor. Se ne è parlato tanto, tanto, tanto in rete, e per questo noi ne parliamo nel nostro RadioTube Social Village con una delle voci, delle penne più cattive. Ultimamente è cattivissimo, basta il nome, perché il suo sito, che è, possiamo dire, il più famoso d'Italia, possiamo dirlo, si chiama come lui, Davide Maggio. Ciao Davide. Buon pomeriggio. Già, sento che già stai. Allora, quando io ti ho detto, vabbè, insomma, ecco, ricominciato X Factor, ti è piaciuto, non ti è piaciuto, questo, fammi dire la parolaccia, storytelling, questa narrazione della nuova Italia, ti è piaciuta? Guarda, ti devo dire la verità, io sono un po' ultimamente, ma non solo X-Factor, un po' in generale i talent un po' uguali a se stessi proprio negli ultimi anni. Però devo dire che da un punto di vista di prodotto sicuramente X-Factor è un programma che merita, nel senso che è ben fatto, è ben studiato e soprattutto quest'anno hanno fatto una scelta che io trovo interessante, nonostante non ami molto i ritorni al passato, però aver riportato Mara Maionchi sulla giuria, quindi sul bancone, dietro il bancone dei giurati di X Factor, l'ho trovata una cosa interessante perché la trovo perfetta per un talent. Per cui in generale sicuramente il programma è un programma che merita. Sono stati molto furbi, come abbiamo sentito poco fa. Furbetta sta cosa. Non è la cosa più furba di questa settimana, poi ne sentiremo una ancora più furba, ma va bene. È molto furba perché strizza l'occhio all'attualità, anzi alle polemiche attuali, mettiamola così. Infatti non so se avete visto oggi un pezzo di Libero che li ha massacrati per questa scelta, ma è il gioco una delle cosa parti. Quasi un po'. Sì, esatto, esattamente così. Per cui diciamo che ci sta, però il concorrente nigeriano devo dire che alla fine poi non è stato male. No, infatti a me sembra comunque bravo, quindi insomma sì, non è una questione solo di, esatto, ecco, di furbizia. Bravissima. Sì, non è soltanto uno strizzar l'occhio, no, alla polemica facile che poi ti porta inevitabilmente degli ascolti. Però devo dire, c'è anche del merito sicuramente. Ma adesso allora cosa deve fare Amici? Perché tra un po' inizierà anche Amici. Cosa deve fare? Alzare ancora l'asta? Guarda, il fatto è che X Factor ha battuto sul tempo Amici, perché l'anno scorso in chiusura di stagione, cioè parlo l'anno scorso, stagione scorsa, dopo la finale di Amici, quindi a maggio, la De Filippi dichiarò proprio che avrebbe voluto degli artisti stranieri ed è stata un attimo battuta sul tempo. E non forse dirlo in diretta, è Maria, però tu le idee buone tieni per te. Esatto. Sì. Tra l'altro ti do una notizia e la do anche ai tuoi ascoltatori. Pare che abbia fatto proprio dei casting a Londra e in Spagna perché cercava degli artisti italiani che avessero fatto successo all'estero e al tempo stesso anche degli stranieri che poi vorrebbero fare del successo in Italia. Quindi non male come idea, non male questa. Chissà, bisogna vedere poi chi ha trovato, perché l'idea è sicuramente interessante, poi vediamo. Quindi lei è andata a fare i casting all'esterno, invece X Factor li ha presi in tutti quelli che erano arrivati, erano tipo 160.000 a fare le selezioni. Hai parlato del casting azzeccato di X Factor, sì. Ti è piaciuta Mara Maionchi? Mara Maionchi. No, allora a me devo dire per ora questa Levante che piange ogni due minuti, non lo so, non lo so, vabbè però... Se beneficio vuoi ti do un parere. Sì, dai. Se vuoi ti do un senti, la verità è che quando si parla di musica, no? Devi necessariamente portare a giudicare, secondo me, degli artisti che abbiano alle spalle un bagaglio importante di esperienze, no? In ambito musicale, ovviamente. In questo caso si privilegia un artista che non voglio dire di esperienza, ma quantomeno di musicalmente alla fine ha fatto ben poco, o quantomeno è poco nota quantomeno per ciò che ha fatto al pubblico italiano. E sinceramente, sai, un ragazzo giovane che si fa giudicare da un artista che alla fine ha l'attivo, se ti chiedessi quali sono le canzoni più famose di Levante, quante me ne sai dire? Me ne sai dire più di due? Beh, io forse sono un po' troppo informata per chi mi occupo di questo. Io credo che probabilmente il pubblico Non lo so se la individua subito. Appunto. Infatti a un certo punto della puntata hanno detto perché Levante ci piace molto, è quella che ha cantato questo e quella che ha cantato quello. Però diciamo che è un po' la formazione della giuria. Anche quando Fedez è arrivato non aveva... cioè inventi il personaggio. Ma infatti lo trovo sì, è brava. Appunto, questo che volevo arrivare proprio qui. Cioè si privilegia più il personaggio che non l'artista. Sinceramente Fedez potrebbe continuare adesso a far compagnia alla Ferragni a Los Angeles, per esempio, no? Per dire. Bah, che dire, poi non è neanche un brutto lavoro. Piuttosto che, ma no, ma anche da un punto di vista lessicale, se tu ci fai caso, sono sempre le stesse battute, c'è sempre lo stesso registro, basta. Tant'è vero che spero che l'anno prossimo non ci sia più. Davide Maggio la tocca sempre piano. Allora, e in tutto questo Amici ha annunciato l'arrivo di Paola Turci, che è, non male. Ti smentisco Giorgia. Perché avevo letto di Giorgia, ma credo proprio che non ci sia, credo che sia proprio una cosa inventata di sana pianta. Non credo ci siano state neanche delle trattative. Forse l'anno scorso c'era una mezza trattativa, anche perché poi è arrivato il marito o compagno, non so cosa sia, in come docente. Ah, nel 2017, siamo moderni. Vedi, la persona con cui si accompagna normalmente. Non so. Il padre del figlio. Allora, Davide, facciamo una cosa. Dopo questo rovo linguistico. No, ma per carità. Allora, facciamo una brevissima pausa. Poi io adoro Giorgia perché è super simpatica. Una brevissima pausa. Il traffico e poi ti devo sfruculiare almeno su un altro paio di trasmissioni. Traffico. Il mio piatto migliore. Quello grande per le pizze Roncadin. Roncadin nel banco freezer. Vi presenta... Radio Tube Social Village. Chissà che Veronica beva. Mi state dicendo, mi sa che Veronica beva. Certo. Chissà che Veronica beve. Tu sei bravo. Periodo ipotetico, ci va il congiuntivo, non scherziamo. No, tesoro, non è ipotetico questo. Te reggi il presente, mi sa che beve. Adesso dovrei. Te l'ho detto che mi serve un dizionario, se sbagliano i congiuntivi così facciamo una figura proprio assurda. È la neuro! Stanno venendo a prendere me! Avete sentito? Allora, finalmente delle lezioni di italiano in un reality show. Era Simona Izzo che al grande fratello VIP ha detto un sacco di cose giuste, ha parlato anche di etimologie. Allora, dal casting di un programma si fa il successo del programma stesso. Mi sembra di aver enunciato una legge banalissima. Però, Davide Maggio, ancora in linea con noi, ancora per qualche minuto per parlare di TV. Questo GF VIP cominciato veramente con dei begli ascolti. Che cosa diciamo? Diciamo che fondamentalmente è una cosa assoluta. Nel senso che, visto che abbiamo parlato poco fa di X Factor, facciamo un paragone tra talent e reality, no? Nel senso che in Italia ci si ostina a voler fare talent. L'ultima notizia è che Rai 2, per esempio, è ancora alla ricerca di un nuovo talent musicale. Ma la domanda è, ma perché? Perché in Italia il talent non va. Cioè Rai 2, no? Dopo The Voice, che non ha mai ingranato come volevano, comunque vuole un nuovo talent. Sì, vuole un nuovo talent, dopo aver soppresso quello mai partito che era Italian Idol. Sì. Vai a capire, non vanno, cioè hanno degli ascolti molto diversi rispetto ad un reality show, che io non sono assolutamente uno che demonizza il reality, anzi, che se fatto come si deve, con tutti i sacrificismi, diventa forse anche da un punto di vista dell'intrattenimento più interessante rispetto al talent, no? È chiaro che poi il Grande Fratello spesso sconfina un po', però ti devo dire che nella versione VIP hanno azzeccato il cast, sì, sia quest'anno che l'anno scorso, e anzi forse quest'anno ancora meglio dell'anno scorso, e ti devo dire che è gradevole. Poi se si vuol fare sempre la polemica, ma cosa vanno a fare, io di qua, poi mi piacciono quelli che dicono io pago il canone, non sapendo che non c'entra nulla il canone, che si paga con ciò che trasmette Mediaset, ma va bene. E ti devo dire che è simpatico, è godibile, alla fine Malgioglio, no? Ma che credibilità vuoi dargli? Nel senso, racconta delle cose che sono talmente inverosimili che diventano simpatiche. Sì. Cioè, lui che racconta di questo, uno che arriva a dire che è il cugino di Lady Gaga, ma vi prego, no? Cioè, tutti i parenti suoi sono, guarda, te lo smentisco io. Oppure, aspetta, cos'è? Devo partecipare al Grande Fratello VIP perché devo pagare l'avvocato perché... Chi è che l'avrebbe querelato? Me la sono persa questa. No, guarda, una cantante famosissima americana, ma ti prego, dai, forse è Beyoncé. Allora, una delle cose che mi hanno divertito più ieri sera, guardavo Twitter verso tardi, e erano le 11:30, c'era gente che si lamentava perché stavano già andando tutti a letto alle 11:30 e non si poteva vedere la diretta. Vabbè, hanno ragione. L'età media, adesso anch'io vado, anch'io era un caso che fossi sveglia alle 11:30 e dicevano, ma come? Ma noi vogliamo vedere la diretta e questi vanno tutti a letto. Abbiate pazienza. Hanno ragione, dovrebbero svegliarli perché alla fine devono fare intrattenimento, quindi il Grande Fratello dovrebbe tenerli un po' svegli. Esatto. Insomma, magari... sì, vabbè. E hanno dei problemi con gli orari comunque, credo, nel senso che non sono riusciti ad identificare bene, a sincronizzare i loro orologi biologici con quelli reali che non possono vedere, quindi un po' magari pensavano che fosse, che fossero le due di notte, quindi sono andati a dormire. Infatti loro non hanno gli orologi. Allora, ultimo programma di cui vorrei parlare, ce ne sarebbero mille, ma insomma, tanto parliamo di quelli che sono ripartiti, poi riparleremo anche di quelli che partiranno, perché Sky questa settimana anche... Ti vengo a trovare in studio, tra l'altro. Vabbè, ma io tutte le settimane ti scrivo, anzi, lo dico, ogni settimana dico, mando un WhatsApp a Davide Maggio, dico, Davide, sei tornato a Milano? No, sono ancora al mare. Allora, ma non credere, non è stato, vabbè, poi ne parliamo in separata sede. Vabbè, ne parleremo in separata sede. Terza trasmissione, sigla. E Pechino Express è iniziato con la nuova stagione, ma qualche ora prima della messa in onda è successo questo, che uno dei concorrenti, Will Woosh, noto per essere una star del web, poi ha fatto anche tante altre cose, ma sul web è nato e sul web è tornato con questo video. Ciao ragazzi, io vi chiedo perdono perché un anno fa avevo promesso che sarei tornato e alla fine non ho postato più nulla, ma sono tornato. Ok, e per farlo ho deciso di raccontarvi in questo video magari delle cose che non sapete di me. E ho pensato anche, per rimanere così al passo coi tempi, di fare un elenco delle 10 cose che mi piacciono e delle 10 che non mi piacciono. Partiamo subito. Allora, le cose che mi piacciono sono le ciliegie, il sushi, i libri, il rumore della pioggia, il cazzo. Cosa? Londra, no, ha detto una parolaccia. Allora. Allora. Stavo per fare un'altra io adesso, ma. Allora, dice due parolacce per dire, per fare coming out. Dice sostanzialmente che è gay. Vabbè, sacrosanto. Ma cosa diciamo del fatto che l'ha fatto tre ore prima dell'inizio di Pechino Express? Che noia. Diciamo che noia. Come Michele Bravi. Esatto. Devono partecipare uno a Sanremo, l'altro a Pechino Express e fanno coming out. Basta. Fallo prima. Fallo dopo. Fallo da un'altra parte. No. Tra l'altro poi Vanity Fair, sempre testata che deve andare a mettere, cioè, il sigillo. Non avevo collegato. Vabbè, evidentemente a loro piace la testata principe del coming out. Un ascoltatore o ascoltatrice scrive al 349-238-6666, ma del sito di Miss Italia che annunciava in anticipo la vittoria dell'Italo africana non dite niente. Questa me la sono persa. Adesso vado a cercare tutto. Io so che questa ragazza... Anch'io. Adesso andiamo subito a controllare. C'hai colto in castagna. So che questa ragazza, che è italiana e senegalese, se non sbaglio, con un genitore e un genitore, si è un po' offesa perché non ha voluto invece la narrazione. Che noia anche questa. Perché l'ha detto, no, basta, io sono italiana. Che vuol dire? Ragazzi, vuol dire che vogliamo fare un titolo, Davide. No, ci ha dato dei razzisti, Sì, dicendo, certo, nel momento in cui tu dici, non dovevi dire che sono senegalese perché mi hai penalizzata, vuol dire che dà per scontato che l'Italia, gli italiani, sono un paese, un popolo razzista. Non avevo dato questa... Perché lei dice, dicendo che io sono senegalese non verrei votata. Che brutto, appunto, che brutto, appunto. Che brutto. E quindi stessi a casa, sono contento. No, dai, Davide, Davide. Cattivissimo. Allora, non ti faccio commentare anche la velina bionda, che anche lei è di origini un po' miste, perché anche lei è africana, però ha vissuto anche in altri posti del mondo. E qualcuno ha detto che non va bene come velina bionda. Figuriamoci, questa è un'altra cretinata dell'ultima ora. Ma sinceramente possono stare a casa tutte e due anche loro. No, caso, ma perché... non era colpa sua, Davide. No, ma non per questo, dico in generale, la figura della velina è passata. Secondo me, lo farei condurre alle veline striscia. Bravo, finalmente, dopo tante cattiverie, una Cattiveria che mi piace. Ma non sono cattiverie, sono cose oggettive. Ma io dico, ma la senegalese che se la prende, perché si dice che praticamente l'Italia non l'avrebbe votata perché è senegalese. Ma stiamo scherzando? Ma dai, no. Sei, tra l'altro, il paese che ti dà è il paese nel quale vivi. No, ma anche perché lei è italiana. Vabbè, insomma, sì, non ne verremo a capo. Davide, grazie per essere stato con noi. Torna dal mare, vieni a Milano. Ti voglio in studio, grazie a Davide Maggio. Assolutamente, non mancherò. Adesso è il momento, un bacio grande. Adesso è il momento di smettere per un po' di parlare televisione e di aprire un'altra bellissima pagina del nostro RadioTube. Radio 24 e Touring Club Italiano presentano Passaggio in Italia, alla ricerca dei luoghi da scoprire. La riserva dello Zingaro è un'area naturale protetta, uno dei pochissimi tratti di costa della Sicilia non contaminata dalla presenza di una strada litoranea. Si estende nella parte occidentale del Golfo di Castellammare, nella penisola di San Vito Lo Capo, lungo 7 km di costa e quasi 1700 ettari di natura incontaminata. Chi percorre i suoi sentieri può spaziare la vista su oltre 700 specie vegetali catalogate. L'area è abitata da un numero imprecisato di animali, dagli uccelli, specialmente quelli rapaci, ai mammiferi di piccole dimensioni. Tanta televisione, viene voglia di prendere e partire, basta, andiamo a fare un viaggio. E come sempre in questo nostro RadioTube Social Village, come era fino a qualche mese fa nel Sabato del Villaggio, andiamo a visitare un sacco di posti bellissimi insieme ad Anna Rita D'Ambrosio. Ciao Anna Rita. Ciao Marta. Allora, qualcosa abbiamo già colto dall'estratto della nostra radioguida. Dove andiamo oggi? Andiamo in un posto straordinario, andiamo in Sicilia e per la precisione andiamo nel Trapanese, in un giro che va da San Vito Lo Capo a San Vito Lo Capo, dove peraltro in questi giorni c'è un'occasione in più di visita, rappresentata da un festival tra musica di un certo livello, poi ti dico i nomi perché sono nomi grossi, e soprattutto cibo, un cibo di integrazione un cibo in qualche modo speciale. Parliamo del Couscous Festival, è anche un compleanno speciale quest'anno. Allora noi abbiamo un ospite che ci porta a scoprire i colori, i sapori, gli odori di questo festival straordinario. Lo ringrazio, è Marcello Orlando, partner e amministratore della società Feedback SRL, ideatrice e producer dell'evento che compie 20 anni. Salve. Buongiorno a tutti. Buongiorno, che meraviglia. Io ho già voglia di couscous, che poi è un piatto appunto mediterraneo e anche siciliano. Grazie intanto, dico, di aver pensato di raccontare il Couscous Fest, che come dicevate compie 20 anni, quindi un compleanno importante per noi. Allora, siamo a San Vito Lo Capo, giusto per introdurre il concetto. Perché questo binomio col Couscous Fest? Perché probabilmente, contrariamente a quello che si pensa, non sono gli arabi che nell'Ottocento portano il couscous, che è questa semola di grano duro color oro che viene incocciata, che significa sostanzialmente viene raggrumata e condita con i prodotti del territorio, ma probabilmente viene questa tradizione importata dagli schiavi, perché tanti anni fa noi siciliani venivamo presi schiavi dai tunisini. Quindi nelle patrie galere tunisine probabilmente la contaminazione, che comincia dal 500 e finisce all'800, ha portato questa tradizione in questo piccolo borgo. È una festa di civiltà, ho letto sul sito, mi è piaciuta molto questa definizione. Sì, è sostanzialmente un festival che dal cibo trae spunto, ma è un festival welcome diversity, è il nostro claim, il nostro slogan, perché noi accogliamo tutte le tradizioni, tutte le culture. Pensate, ci sono 10 paesi che si sfidano a colpi di couscous, a tavola non si litiga mai, e il couscous peraltro è mangiato in 4 continenti, è uno dei cibi più rappresentativi, avvolto da leggenda, peraltro leggero, economico. Poi con i prodotti siciliani, insomma, è ancora più buono. Quindi ci sono gare di couscous tra chef importanti, anche italiani, di 10 nazioni, e poi ci sono anche dei concerti. Dei concerti, Niccolò Fabi, Fabrizio Moro, Samuel, Francesco Gabbani, Levante. Ma che bei nomi, belli, bellissimi. Per tutti gusti, abbiamo un palinsesto molto ricco, ovviamente il couscous fest è un pretesto, è una competizione sia nazionale che internazionale. Sottolineo che quest'anno il presidente giuria sarà Bastianic, che peraltro viene anche a cantare. Lui non si trattiene, se lo fate cantare lui è felice, è la cosa che gli piace di più, la verità è questa. Preso, non solo per la gola ma per la musica. Sì. Ecco, siamo un festival pop, abbiamo circa 200.000 presenze, con un tagliando di 10 euro c'è la possibilità di mangiare presso tutte le case del couscous e quindi degustare oltre 40 ricette di couscous preparate da chef da tutto il mondo. Parto già con la forchetta. Grazie a Marcello Orlando, partner e amministratore della società Feedback SRL, ideatrice e producer del Festival del Couscous in pieno svolgimento nel posto meraviglioso che è San Vito Lo Capo. Grazie. Anna Rita, noi invece ci troviamo il prossimo sabato ancora con un'altra meta e un'altra radioguida il prossimo sabato. Ciao Anna Rita. Ciao. Radio Tube Social Village. Abbiamo parlato tanto di televisione, adesso voltiamo pagina perché parliamo di serie. E non è televisione? Beh, non proprio, non sempre. Vabbè, intanto tornano Will & Grace dal 29 settembre su Joy, e questo è su Premium Mediaset, insomma qui perlomeno siamo ancora in fatto di TV, quella con il telecomando. È la nona stagione, in contemporanea assoluta e in contemporanea con in esclusiva assoluta e in contemporanea con gli Stati Uniti, attesissima. Sembrava che fosse una bufala che potesse tornare una nuova stagione di Will & Grace dopo tanti anni, invece è tornata. Questi erano appunto loro due che cantavano in un musical che hanno fatto per annunciare davvero questa notizia sconvolgente per gli appassionati di serie. Ma perché io ho detto serie TV? Sì, va beh, ma non è più solo TV, anzi voltiamo pagina e non parliamo più di TV, perché per guardare le serie, per produrre le serie, per realizzare le serie, la TV ormai non serve quasi più o non serve sempre. Ne parliamo subito con una delle nostre amiche più affezionate, un tempo del Sabato del Villaggio, ma ora è sempre anche di Radio Tube, Stefania Carini. Ciao Stefania! Ciao! Vabbè, critico televisivo, autore televisivo, fai un sacco di cose, Stefania Carini su Twitter, così leggete anche tutto quello che scrive. Stefania, le serie, cioè, le chiamiamo serie TV, ma la TV non è detto che c'entri più, anzi, che cosa possiamo dire? Diciamo che non c'entra il televisore, cioè l'aggeggio con cui una volta, ancora adesso per carità, in realtà guardiamo le serie TV. Di sicuro sono televisive perché replicano in parte o totalmente lo stile seriale della televisione, cioè parliamoci chiaro, Netflix ha cambiato il modo con cui noi guardiamo le serie perché possiamo guardarle magari tutte insieme col binge watching, perché magari, come dire, è cambiata un po' a livello narrativo, perché proprio perché c'è il binge watching non c'è più quell'idea di chiusura come una volta c'era in televisione, ma le serie sempre di più diventano serial e così via, ma in realtà tutte tendenze che già avevamo visto nella televisione tradizionale, che già si stava aprendo a nuovi modi di fruizione e a cui Netflix ovviamente ha dato il là ancora di più. Parliamoci chiaro, non c'è solo Netflix, c'è Amazon, c'è Hulu e ci sono anche Hulu che in Italia non abbiamo ancora. Hulu che in Italia non abbiamo ancora, che però quest'anno ha prodotto forse la serie più interessante da un punto di vista narrativo e politico, che è The Handmaid's Tale, che è dedicata... Titolo difficilissimo, raccontami di cosa parla. Allora, in italiano è Il racconto dell'ancella e racconta di un futuro distopico nel quale le donne sono private dei loro diritti, un futuro nel quale in pratica il mondo subisce un calo della fertilità, quindi le donne fertili sono come l'oro una volta. E proprio per quello cosa succede? c'è un colpo di Stato negli Stati Uniti da parte della destra più religiosa, che decide che le donne fertili vengono private dei loro diritti e diventano una merce, e quindi sono una merce per produrre bambini. Questa la possiamo vedere in Italia? Questa la potremmo vedere in Italia. La cosa interessante è che non la vedremo su, insomma, né su Netflix né su Sky, che ci avevano abituato a questo tipo di prodotto, ma lo vedremo su Team Vision dal 26 settembre. E anche questo ci dimostra come sta cambiando il panorama anche italiano, perché abbiamo un nuovo competitor che c'è da un po', però insomma se ne parlava meno, diciamo. Se ne parlava meno, con questa serie se ne parla e se ne parlerà, perché effettivamente è un po' un guanto di sfida, no? Che viene gettato, perché finalmente con questo titolo possiamo parlare di un nuovo player, anche perché è molto probabile che agli Emmy questa sarà la serie più premiata. Gli Oscar, i famosi Oscar della TV, delle serie TV, gli Emmy. Stefania, le cose più attese invece tra Amazon e Netflix? C'è una cosa molto attesa che si chiama Star Trek Discovery, visto che ha iniziato con Will e Grace, che è un ritorno. Insomma, Star Trek è un continuo ritorno, c'è stata la serie classica che tra l'altro andrà in onda sulla 7, se non sbaglio, proprio perché, come dire, il vecchio quando è fatto bene alla fine serve anche alla nuova TV. Star Trek Discovery è invece una nuova serie ambientata 10 anni prima della stagione classica, e anche questa è molto curiosa, la situazione di questa serie, perché ci spiega come cambiano davvero le strategie. Allora, in America questa serie non è prodotta per la televisione tradizionale, mm-hmm. anche se è prodotta da una rete TV tradizionale, che è la CBS, che però da 2 anni ha aperto un suo servizio in streaming, e quindi produrrà questa serie, che ovviamente è una chiappa ascolti, una chiappa pubblico, per il suo Netflix personale, anche se poi a livello mondiale questa serie sarà distribuita invece da Netflix. Cioè, quindi, fammi capire, come se la Rai producesse i prossimi episodi di Montalbano solo per un servizio a pagamento della televisione stessa? Esatto, e invece a livello mondiale lo vendesse non con Rai International, ma con Netflix. Cioè, quindi un possibile prodotto che rimane a pagamento, realizzato però da una TV tradizionale. Complicatissimo, ci fa capire che il futuro è complicato assai. Stefania, ti devo fare una domanda che arriva al 349-238-6666 da un ascoltatore. Dice: e di Teen Star non dite niente? Teen Star è la nuova serie su Sky, con Tim Roth, se non sbaglio. Eh sì, perché l'abbiamo appena visto, esatto, alla presentazione. Esatto. E questa è anche questa è una insomma, interessante il prodotto, interessante anche che Sky sempre di più si lanci in produzioni internazionali, non è più semplicemente un acquisto di, come dire, di prodotti, non so, della HBO, che possono ovviamente far parlare di sé, siamo al Trono di Spade, ma in questo caso abbiamo una produzione che viene lanciata quasi in contemporanea sui canali Sky e che, come dire, diventa marchio di fabbrica. Vediamo cosa succederà. Esatto, ti chiedo un'ultima cosa, però l'ultima cosa è: qual è la serie che aspetta con più ansia Stefania Carini? Allora, con più ansia Il Trono di Spade, ma mancano 2 anni, quindi diciamo, quindi placatela, perché quindi me la devo per 2 anni passare. Non ti possiamo sopportare aspettare, ecco, Il Trono di Spade. Ecco, diciamo che io aspetto con trepidazione The Crown l'8 dicembre su Netflix, perché la trovo la serie storica, forse anzi la serie migliore per tanti aspetti prodotta da Netflix a livello produttivo, di temi, di significato, cioè di la serie che racconta la storia della regina Elisabetta. Noi abbiamo già visto la prima stagione. Noi abbiamo visto la prima stagione e adesso insomma arriverà questa seconda stagione che parlerà, la prima stagione parlava proprio dell'inizio del regno, quindi si attende con trepidazione la seconda. Non so se arriverà fino agli anni di Diana, non credo. Sarebbe bello, eh? Sarebbe bello, d'altra parte poi abbiamo anche Feud, che è l'altra serie di Ryan Murphy, che prima o poi dopo Versace ci parlerà di dello scandalo, diciamo, tra Carlo e Diana, quindi probabilmente a un certo punto parleremo, avremo più serie che ci racconteranno di Diana. Ed è uscita anche la notizia che History produrrà qualcosa su Bill Clinton. Insomma, direi che gli anni 90 sono il passato che ci ritroveremo a ricordare, a rivedere come storia con la S maiuscola da qui a qualche anno sulle reti TV o appunto sui servizi in streaming. Fantastico, grazie a Stefania Carini. Stefania, grazie, torna a anche a trovarci in studio. Grazie Stefania, a presto. È bello divorare la notte fino a fare a botte con i miei sentimenti. Mi piacciono i bicchieri finiti, i sogni impazziti, i segni sul cuore. Guardare chi ha perso una guerra, ma poi si rialza e continua a lottare. Allora, questo è uno dei dischi che mi piacciono di più in questo momento. Lui è il nostro ospite di RadioTube per quanto riguarda la musica. Tra poco saremo con lui, vi dico già chi è. No, facciamo che ascoltiamo insieme gli aggiornamenti dal traffico, visto che abbiamo sentito sono successi un po' di incidenti, quindi è meglio tenere d'occhio la situazione. Ci ritroviamo tra poco con questo ospite che io adoro. A tra poco! Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta... Radio Tube Social Village. Quella volta che ti sei rotta un piede imitando Ambra, e stazione piangevi forte fino alla tua gonna. Quella volta che ho detto a tuo padre che avevamo un senso, e tua madre perplessa ha capito che qui ci rimango. E come spesso accade, gli ascoltatori lo sanno, perché quando a me piace un disco non c'è niente da fare, non solo ve lo devo far sentire, ve lo devo proprio come se ve lo dovessi vendere. Questo ve lo dovete comprare. Allora, vi spiego. Tutti noi abbiamo dei momenti in cui vogliamo un po' struggerci, ci vogliamo fare un po' del male, vogliamo lo strutto, vogliamo struggerci, e io questa settimana mi sto struggendo tantissimo. Quanto mi piace questo La fate facile del Cile. Ciao Lorenzo. Ciao a tutti, è veramente un onore, ma lo dico sinceramente, essere qui da te, perché ora, cioè, mi tornano tanti bei ricordi di questa voce che è la tua, di momenti della tua trasmissione, dato che questa radio, e non so se è producente o meno dirlo, è praticamente l'unica che ascolto, perché c'è pochissima musica. Giusto, ma no, ma comunque sai che non sei da solo, spesso lo dicono i musicisti, ma non è una cattiveria nei confronti delle altre radio, è che un musicista ne ascolta tanta di musica, e quindi magari quando accende la radio... insomma, e oggi invece ascoltiamo quella del Cile. Il Cile, Lorenzo Cilembrini, perché poi tutti dicono: ma perché il Cile? C'entra il Cile, no? Perché sei toscano e quindi il Cile, fin da piccolo. Quello sì. Senti, ma sei matto? Ma hai raccontato un sacco di cose di te in questo disco, anche scabrose sotto certi aspetti. Pesanti. Ma guarda, io ti dico la verità. Ormai è il terzo disco, certe domande sia ai miei fan, sia a chi si avvicina la prima volta, sia a chi comunque legge i miei testi, ascolta le mie canzoni, se le fa, me le fa, in qualche modo mi arrivano. Allora io ho pensato, facciamo una canzone, ovvero La fate facile, che poi dà il nome al disco, in cui cerco di riassumere in 3 minuti e mezzo tutta la mia vita, poi tirate voi le conclusioni se... Certe mie disconnessioni, certi miei alti e bassi, certe mie spigolosità e certi miei slanci positivi e negativi, ironici e meno ironici, hanno senso di esistere. E per questo ho deciso di fare questa operazione, diciamo. Tanto poi c'hai gli occhioni blu e ti si perdona tutto. Sì, più o meno. Ma sì, ma funziona così. Non lo sapessimo che funziona così. Ci sono tante canzoni molto intense. Io appunto l'ho detto, quando proprio voglia, soprattutto in questi giorni di settembre, di avere un po' quei toni lì, un po' malinconici. C'ho bisogno di questa musica. Lorenzo, qual è il tuo rapporto con il successo? Perché tu con Maria Salvador hai fatto proprio il tormentone dell'estate. Sì. Allora, ma sai la cosa buffa di Maria Salvador? Qual è? Che né io né Axe ci aspettavamo tutto questo. Perché praticamente lui mi manda questa canzone senza ritornello. Io adoro lavorare coi rapper. Nell'ultimo disco di Enzi ci sono in una canzone che a me piace molto, dove ho fatto anche lì il ritornello scritto, perché io se devo interpretare non mi trovo a mio agio. E niente, poi dopo non so come, non so perché Axe ha lanciato quello come singolo. Non doveva nemmeno essere un singolo, è successo tutto senza che noi programmassimo niente. E ovviamente io, da una tipologia comunque di percorso musicale e artistico, mi sono trovato in tutt'altro mondo che mi ha fatto divertire tantissimo, di cui sono orgoglioso, perché comunque è frutto di un mio lavoro e ovviamente di Axe in primis, cioè io ne sono comprimario in quell'occasione, però sì, è stato destabilizzante, perché comunque prima camminavo per strada, magari mi conosceva la persona che comprava i miei dischi. Vabbè, avevi fatto un Sanremo, Sì, sì, no, ma sì, però c'era comunque una tipologia di persone, magari coetanee, e camminare per strada e trovare i bambini e le famiglie che vanno Maria Salvador, ecco, era una cosa un po', come dire, surreale, però fa parte delle carriere, cioè voglio dire, anche questa è vita, come dicevo. Ma poi tu non ti neghi niente, hai scritto persino una canzone per Pupo. No, allora, io Pupo l'adoro umanamente, perché da Arezzo come me, esatto, siete è una fucina, di aneddoti, perché comunque scherzando, ridendo. No, Pupo, anche perché tu c'hai la vita maledetta, ma prima di arrivare a Pupo. Scherzando, ridendo, Pupo comunque ha venduto molto più di tanti artisti, magari di nicchia, che lo denigrano. Io sono, poi ovviamente non è, diciamo, tra gli ascolti che mi hanno formato artisticamente. C'era delle canzoni che erano legate al mio vecchio produttore, Enzo le ha sentite, due erano nelle sue corde, l'ha prese, nel senso me l'ha chiesto, ma io non ci vedo niente male, cioè nel senso, e l'avevo scritta a 16 anni, quindi... Ma lui lo dice, era molto carina, era tenera. E la cosa bella è che Enzo trasmette allegria, perché se pensi veramente la sua vita è stata molto più rock di tanti rocker che conosco, che magari sul palco sembrano... Cioè Pupo veramente ha rischiato la vita più volte, il conto in banca, la testa, poi è ovvio, i gusti musicali sono altri, la formazione è altra, però Pupo è lì e sta lì. Allora ti chiedo qual è la formazione musicale, a questo punto sono curiosa. Io credo che sia piuttosto comune, molti miei colleghi coetanei o meno, tutto il cantautorato italiano che... Per le ragioni di La Fate Face, rimanendo chiuso in casa in infanzia, io evadevo in quel modo. Quindi ci tiene anche Rino Gaetano, quasi. Sì, si parte da Rino, forse il primo, anche per, nonostante io mi inginocchio sempre, mai mi permetto di dire di fare similitudini, è Fabrizio De André, perché comunque quel tipo di malinconia, ma anche tristezza, è sempre stata nelle mie corde. E come, cioè, quando mi dicono ma ti metti a nudo, prendi una canzone come Giugno 73 e non è mettersi a nudo a livelli inquietanti, cioè nel mio caso parlo spesso dei padri per motivi di idiosincrasia con loro nelle relazioni. Lui parlava della madre, tua madre c'era molto con me, però ragazzi, se non ci si mette a nudo in questo mestiere, credo, e comunque tutto il cantautorato italiano. E poi parallelamente il primo disco che mi sono fatto comprare, perché facevo la quinta elementare, è stato Nevermind di Nirvana. Da lì poi tutto il Britpop e tutta la musica, diciamo, anglo-americana di matrice rock. Ti faccio una domanda di una banalità che fa paura anche a me, ma lo rifaresti Sanremo? Ma perché comunque, allora, partiamo da questo concetto. Sanremo è un palco dove sono passati Vasco, Rino, ci sono passati due artisti che stimo tanto, ma non solo, insomma, ha una storia. Poi è ovvio, come tutte le grandi vetrine italiane, ha i suoi aspetti, diciamo, un po' più folcloristici. Mi piacerebbe tornarci più per una rivincita personale, per capire veramente che sono diventato adulto. La prima volta che sono andato lì sono entrato nella lavatrice, non ci capivo più niente. Io ricordo solo l'esibizione e la premiazione del Sergio Bardotti e basta. Il resto è tutta una nuvola rarefatta di interviste, incazzature, disappunti, slanci di gioia, nervosismi. E invece mi piacerebbe rifarlo da essere umano senziente, ecco. Allora, io sono pazza di questo disco, la fate facile, forse è vero, a volte la facciamo facile, però a volte è anche dura, però un disco così secondo me si accompagna bene alla stagione, si accompagna bene a dei bellissimi pensieri e sono contenta di aver avuto con noi il Cile. Grazie Lorenzo. Grazie a te e ti abbraccio fortissimo e un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao. Addio alle donne senza gonne, addio vittorie sconfitte e a tutte le mie voglie, addio alle lingue sopra i culi per due spanne di carriera, addio agli amici andati persi e a quelli di una sera, addio ai ricordi dell'infanzia con mia madre e con mio padre, addio ai loro occhi senza pace. Addio all'industria che fa i dischi come fossero due scarpe, addio ai talenti da TV che tanto durano un istante, addio giullari, addio paillette, addio ai drogati da jet set, addio a chi gonfia il proprio ego come fosse un antistress, addio canzoni di una vita, addio canzoni da finale, mi avete fatto compagnia e con voi non stavo male. E questo lungo addio lo dedico anche a Dio che mi ha guardato bruciare veloce, ma la benzina non l'ho mai versata io. E questo lungo addio lo dedico anche a Dio che magari nemmeno esiste, oppure esiste e fa parte dell'oblio che ho dentro io. Eh beh, il Cile, ragazzi, io ve l'ho detto, questa stagione è quella per i dischi per i quali ci si strugge un po'. Bravo, grazie, grazie a Lorenzo Cilembrini, grazie al Cile, la fate facile. E questo è il suo disco che è uscito in questi giorni. Molto contenta di averlo avuto qui a RadioTube, in chiusura di questo RadioTube Social Village, perché tra poco apriamo con RadioTube Social Network la seconda ora. Parleremo di spazio, parleremo di cose da nerd, parleremo di Stati Uniti, parleremo di tutte le polemiche in rete e ovviamente non potremo fare un altro accenno ancora alla TV perché tante polemiche sono state scatenate da una trasmissione televisiva questa settimana. Come sempre, tutta l'attualità della rete e dalla rete nella seconda ora con un co-conduttore d'eccezione che è rimasto imbottigliato perché avete sentito che ci sono stati tanti incidenti in questo pomeriggio. Allora, lo stiamo aspettando, io sono fiduciosa, arriverà in tempo. Vabbè, insomma, noi siamo qui, RadioTube Social Network, a tra poco, dopo il giornale radio delle 17:00.